Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, Stefano Dainese che vi parla qui su Blu Radio Veneto, l'appuntamento con Rock Wave del lunedì sera, e avete sentito già dalla sigla speciale, la sigla dei live, che questa sera abbiamo un ospite qui con noi. Il nome d'arte è The Traveler, ma in realtà è un italiano e si chiama Massimiliano Forleo, penso per gli amici Max, giusto? Esatto, ciao a tutti. Benvenuto qui nel nostro studio. Max ci fa un grande onore, un grande piacere naturalmente, ma soprattutto un grande onore perché penso che sia un'anteprima quella che ci hai portato del tuo nuovo disco. Perché esatto, sì, in realtà sì. Il disco è in un limbo, giusto? In un limbo bollino si ha, diciamo. Quindi è bloccato dalla burocrazia italiana, una cosa che in Italia non succede mai a nessuno. I dischi sono, i CD diciamo materialmente, sono stampati, pronti, caldi. Esatto, ma non consegnati a causa di un bollino mancante ancora. Perché in quel caso saresti un delinquente, rischieresti gravi sanzioni. Sì, sono in ritardo con la stampa dei bollini, quindi di conseguenza con anche la consegna. Per fortuna comunque abbiamo la possibilità di farvi ascoltare il disco, come ho detto prima, appunto in anteprima, perché si sa che oltre ai supporti fisici nel 2012 ci sono molte altre alternative, e quindi avremo la possibilità appunto di ascoltare in anteprima una selezione di brani da questo album, che è il tuo secondo. Esatto. Come solista, poi ci racconterai un po' cosa hai fatto prima. E l'album che si intitola Life. È un titolo un po' impegnativo. Sì, ma voi ci prova. Giusto, giusto. Allora, per introdurvi alla musica di Max, la musica di The Traveler, ci ascoltiamo un primo estratto da questo album Life, sentito la Shine On, e buon ascolto a tutti. Something by myself, but something getting wrong. But I can't see heaven in front of you, and I'm here to feel. But I believe in. Yourself, but something getting wrong. But I can't see the heaven inside me. But I'm here to feel, and I believe in something that I have in you. I try to. You know Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questo era Shine On, il primo estratto selezionato da Max in persona dal suo album Life. Un suono molto internazionale, il tuo, devo dire, cioè, non è riconducibile a una zona geografica particolare. Sei un po' inglese, un po' americano, naturalmente un po' italiano, ma quello sì, un po' tutto, un po' quello che ho ascoltato, che anche attraverso, secondo me, molto da piccolo ho ascoltato attraverso i miei genitori. Cioè, io mi riconosco tanto in David, cioè in quello che sentivo di David Bowie, quelle influenze, gli U2, un po' i Coldplay, quelle influenze lì. Quindi i tuoi genitori ascoltavano David Bowie? Sì, Elton John, David Bowie, Joe Cocker, i Queen, mio padre, tantissimo. Beh, insomma, direi che ti è andata bene. raccontaci un attimo un po' di come hai cominciato a fare musicista, visto che è la prima volta che vieni qua, vogliamo sapere un po' di cose. Sostanzialmente, vabbè, come tutti i musicisti, come tutti i cantanti, scrivo i pezzi in camera, a casa, mentre dopo il mio percorso di studio ho cominciato a lavorare come operatore sociale, nel sociale appunto, nel 98 ho cominciato a suonare nei locali, nei club, e cominciare a vivere della mia musica nonostante facessi anche un secondo lavoro, o magari il secondo lavoro era la musica, dipende dal punto di vista. Fino a quando nel 2003 è comparsa la possibilità di fare il primo disco con una band che avevo formato in trio, io al basso e alla voce, una chitarra Marco Palmizzi e la batteria Dario Accardi. Abbiamo formato la band DeLorean, che è andata avanti cambiando formazione un bel po' fino al 2010 sostanzialmente, dopo il concerto penso più grosso della mia carriera musicale, che è stata l'Arena Civica di Milano per il Milano Jazz in Festival appunto nel 2010. Poi ci siamo sciolti e ho cominciato, diciamo, intrapreso quella che sarebbe stata adesso il percorso solista, un po' più cantautorale. Perché cantautorale? Perché le canzoni sono più suonabili chitarra e voce, sostanzialmente. Mentre con i DeLorean, che genere facevate? Così tanto per rock pop, però era molto molto chitarristico, anche perché il chitarrista era molto bravo, Enrico Meloni, ed era molto chitarristico, quindi in acustico rendeva molto meno da solo chitarra e voce. Questo nasce più nella stanza ed era più riproponibile nelle stanze, tipo oggi. Quindi, fra virgolette, un po' più cantautorale. Esatto, semplicemente forse solo per quello. E poi i testi sono totalmente diversi, forse appunto per quello Life, perché a differenza di quello che è stato il mio scrivere in precedenza, che narravo un po' delle vicissitudini, spesso come fanno tanti, amorose anche, adesso invece parlo di temi un po' più sociali, un po' più legati a quanto ci sono rimasto male nel mio percorso. Tu sei un... per così amorosi, sei un padre di famiglia? No? Sì, sì, sì. Non sei uno di quei musicisti che tutte le sere rimorchiano? No, cioè ci tento sempre tutte le sere e poi nego, però... Però no, ho mio figlio a 9 anni, sì, è Matteo, è bellissimo. Vabbè, poi magari ti chiederò anche un po' di cose sul rapporto e su cosa influisce, ma direi che adesso potresti cominciare a suonarci una prima canzone. È uno dei brani del nuovo album. Sì, si intitola One Minute. All'inizio avevo pensato di intitolarlo One Minute for Me, perché in effetti è un minuto che mi sono preso. Poi in sostanza dura 3 minuti e 30, o forse di più, o forse meno, non so. Però questo minuto per cui mi sono preso nel tutto il marasma di quello che faccio, di quello che cerco di fare per raggiungere il mio scopo, che è suonare la mia musica, in questo minuto che mi sono dedicato mi sono chiesto di farmi uscire non con la musica, ma farmi uscire da questa condizione di, a volte, insofferenza, di un po' di disagio. Allora, è un minuto per me. Quindi questa è One Minute, The Traveler, dal vivo qui su Blu Radio Veneto. I don't know what's my position. You let me go outside. You let me go outside. You let me go outside. You know. Take 1 minute for me. To feel love and indifference. Between me and the rest. I don't know where's my position. You let me go outside. You let me go outside. You let me go outside. You know. You know. You know. You know. Questa era One Minute dal vivo qui nel nostro studio. E, specifichiamo subito, Max è da solo con la chitarra acustica, c'è qualche piccolo trucchetto sotto al tavolo, la pedaliera. C'è un DD6, un pedale del delay. Quindi usavi solo delay, non c'era campionamenti qua? No, solo la batteria delay. L'ha ledita sulla chitarra. Sì, quello sì, pensavo avessi anche fatto... Ok, solo un delay molto sì. Allungato, diciamo, esatto. Bellissimo effetto, direi. Volevo un attimo parlare del tuo primo disco, mi pare che tu non così lo stia cercando un po' di dimenticare, però comunque è una tappa della tua maturazione artistica e adesso ascolteremo anche un brano. Dicevi che era un... dicevi prima che all'inizio della trasmissione che era un disco nato anche come colonna sonora. Sì, praticamente questo ragazzo che ha fatto un film documentario in commemorazione dei portati di Sesto è stata la manifestazione dei portati italiani nei campi di concentramento. Ha scritto questa sceneggiatura, questo film documentario, per cui mi ha chiesto di scrivere dei brani chitarra e voce di accompagnamento, di sottofondo. Al che decisi di intraprendere questo percorso parallelamente alla fine della storia, diciamo, di gruppo. E sembra fortunatamente ho cominciato questo percorso perché poi è continuato. E quindi sono nate queste colonne sonore, sono nate 4 colonne sonore per questo film documentario e poi da lì, con lo scioglimento anche della band e aver intrapreso una carriera, diciamo, da solista, ho preso quel filone più appunto cantautorale e ho continuato. Quindi nasce dalla richiesta della scrittura di colonne sonore per un film documentario, Treno della memoria. E il nome The Traveler nasce in quell'occasione lì? E... No, The Traveler nasce perché giro tanto. Sì, ma immagino, cioè, prima avevi la band, quindi quando eri dentro la band ti chiamavi soltanto Max, suppongo, giusto? Sì, assolutamente, assolutamente. No, sostanzialmente perché... Sul treno della memoria, il nome d'arte che era saltato fuori da me e questo mio amico che ha scritto il film documentario è stato un viaggiatore sul treno, il viaggiatore, Va bene, The Traveler. Che immagino ti serva anche perché fai parecchi concerti all'estero, quindi sì, sì, sì. Infatti, probabilmente suona meglio rispetto a Massimiliano Forlè. Infatti il nuovo disco esce, ma c'è stata questa diatriba, tant'è che su iTunes il primo disco è uscito prima su chiavetta e poi è uscito su CD, con dei brani anche differenti. E la diatriba era appunto se uscire con il mio nome o con il nome d'arte. E infatti su iTunes trovi entrambi, con due copertine di colore differente, lo stesso disco, trovi sia sotto Max Forleo come The Traveler, trovi entrambi. O magari qualcuno per sbaglio l'ha comprato. Ma no, magari vendo due CD, ma qualche brano è differente. Sul nuovo è stata presa la decisione definitiva di tenere il nome comunque più esterofilo, anche per necessità, appunto perché girando tanto all'estero è più comodo, diciamo, è più facile da esprimere. Da ricordare anche sì. per un tedesco, per dire, o un inglese. Io quando ho visto, ho preso il disco che avevamo qui in radio, allora prima di ascoltarlo ho visto le note e ho visto la strumentazione che c'è in quel disco. E mi aspettavo un disco quasi folk, perché c'è chitarre acustiche, c'è il violino, poi c'è anche il sax, mi pare. Questo qui, sì. No, nel nuovo. Nel nuovo credo, c'è il sax. Li ho ascoltati contemporaneamente, faccio un po' di confusione. In realtà il suono è molto... è abbastanza elettrico alla fine, nonostante... Sì, sì. Io non so definire il genere delle mie canzoni, anche perché... A me piace tantissimo anche l'elettronica, non l'elettronica non di Bob Sinclair, ma l'elettronica dei Massive Attack, di Tricky, dei Lamb. Tant'è che One Minute, cioè il giro di basso, lo volevo che ricordasse quella cosa lì, l'insistenza del giro di basso. Però mi piace anche il rock, quindi sinceramente non mi piace fare un disco monogenere. Cioè ogni canzone ha un'atmosfera, un'emozione, e quell'emozione ha bisogno di un genere. Non so, cioè... Allora dal primo disco, appunto intitolato The Traveler, adesso vi facciamo ascoltare My Sweet Companion. Man, I've four questions about myself. The first, tell me what kind of man I am. And the second, what's the reason to leave all the rest and all the best? I take down my crest, I can't change, so remember, but I can't change. I can't change, I'm sorry mama, but I can't change. Hey Mrs. Carpet, quiet, tell me who you are. Sorry, I've no time to cry. Time to grow, but I can change. I can change. I can change. I can change. How many roads must a man walk down before he can find the real love? And how many times must a man write the story of himself and find the right season? But I can change, I'm sorry mama, but I can change. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, c'è stata una correzione da fare. Il brano che abbiamo ascoltato non era My Sweet Companion, come avevamo annunciato, ma Mrs. Magdalene, esatto. Mrs. Copperplate. Mrs. Copperplate. Il mix del disco nuovo. Sì, perché c'ho qua sotto l'occhio e l'ho letto senza neanche rendermene conto. Mrs. Copperplate, che fra l'altro è un pezzo molto interessante, secondo me, con questo giro di mandolino e un ritmo che a me ricorda quasi reggae. E dicevo appunto che il brano che avevamo scelto prima, My Sweet Companion, invece era uno di quelli che dovevano far parte, che facevano parte della colonna sonora. Esatto. Allora, visto che l'avevamo annunciato, Max ha pensato che giustamente dobbiamo sentirlo a questo punto, e ce lo farà quindi dal vivo. Lo ascoltiamo adesso. And now with another man, and not with my sweet companion. When I'm walking on the sand, I'm walking on the bastard line of time. And I'm talking by myself. Now I'm leaving all my clothes while I'm walking on the sand. I'm walking on the bastard line of time. Remember of my steps, of my love, what of my life. You took a piece of my heart. That's the city of roses, the city of my life, the city of angels is an angel of lies, and I'm staring at you, son, to fly. Not with another man. This night for my sweet companion. While I'm walking on the sand, I'm walking on the bastard line of time. Remember of my steps, of my love, of my life. And you took a piece of my cry. That's the city of horses, the city of life, the city of angel is an angel of lies, and I'm staring at you soon to fly. I'm staring at you soon, but I'm crying. Allora, questa era My Sweet Companion, per davvero stavolta. E, praticamente allora questo tuo primo album nacque in maniera un po' estemporanea, avevi questi quattro brani che avevi fatto su commissione, si può dire? Sì, sì, quasi su commissione. Un po' sì, killer su commissione. e poi appunto hai aggiunto naturalmente altri brani, per cui il disco è nato forse così un po', non dico casualmente, ma non è frutto di un progetto concluso in sé? Ponderatissimo. Ah. Nel senso che erano brani che ho scritto, che avevo abbozzato anche in precedenza, e che ho ripreso sul filone di faccio qualcosa che mi faccia riconoscere per quello che sono, tra virgolette, in camera mia. Mm-hmm. Quello che scrivo... Quindi era un po' un esperimento, un salto nel buio per te, o sei riuscito a fare esattamente quello che avevi già in mente? No, per quello che sono contento di questo disco nuovo, nel senso che è stato un percorso giusto, nel senso che i brani del disco sono un percorso obbligato, però diciamo che l'anima di quello che volevo fare l'ho trovata, poi magari ancora, cioè anzi ancora, sicuramente ci sarà un'evoluzione, però mi riconosco tanto in questo nuovo lavoro, e in quello vecchio mi riconosco in alcune parti tantissimo, in altre parti mi riconosco un po' meno, però... Che è questo qua? Però va bene. Sì, ma insomma il disco comunque funziona, ti dico, avendolo ascoltato anche il primo, non è dispersivo, diciamo, non sembra una cosa, un'unione di cose diverse, alla fine sei riuscito a dargli una continuità. Quello nuovo, che appunto doveva essere fisicamente presente in studio questa sera, io l'ho ascoltato per 7 noni, mi pare di aver capito, perché esatto, mancano un paio di pezzi, quindi il mio giudizio parziale necessariamente, mi sembra un disco più pensato, in effetti, da quell'impressione, e anche tu mi sembri più sicuro di te, se posso dirlo così. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma forse è anche normale che sia così, immagino. Sì, anche se, cioè, il numero di concerti che faccio all'anno dovrebbe portarmi a essere abbastanza sicuro di quello che faccio, però è proprio perché lo sentivo di più, cioè fondamentalmente perché proprio li sentivo di più e mi piace suonarli, cioè mi... A parte che li suono sempre in maniera diversa, così come My Sweet Companion è totalmente diversa da quella che è nel disco, così come One Minute l'ho tagliata e l'ho fatta, cioè ogni volta che li suono sono un brano diverso da quello che è nel disco. Però le cose che dico, sostanzialmente come se cantassi in italiano, le cose che sto dicendo mi fanno sentire bene nel momento in cui le esprimo. E quindi questa cosa qua secondo me si sente tanto nel disco. Sei più convinto, sì, insomma. Sì, sì. E allora, ci ascoltiamo adesso un brano che è Magdalene. Sì. Che a me è sembrato uno dei più belli, se non il più bello del disco, un pezzo veramente di grande impatto. Poi magari ne parliamo, ma intanto ce lo ascoltiamo, e questa appunto è un'altra anteprima dal nuovo disco di The Traveler, che si intitola Life. Drive without my car. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Magdalene era questo brano, un pezzo molto tirato, a me ha ricordato addirittura i Guns N' Roses in qualche passaggio. Tu citavi i Muse anche come possibile vicinanza. Ma su questo i Cure anche? I Cure. Non so, quando ho fatto la linea di basso... Ok, sì, è che il suono generale è un po' più... Sì, sì. Come dire, un po' più tirato rispetto ai Cure. Poi manca quella... Cioè, è un pezzo abbastanza spensierato alla fine. Esatto, cosa sì, che sì. I Cure... non ci penserebbero. Forse un paio di pezzi li hanno fatti, insomma, in 30 anni di carriera, però non è mai stato loro forte, ecco, la spensieratezza. Questo Life nasce con... siccome non ho in mano niente, volevo chiedere a te che musicisti ci sono. Sono gli stessi con cui sono stato precedentemente, tutto nuovo? Chitarre, allora, batteria c'è Guido Lazzaroni. Al basso Fernando De Luca, nel disco Silvio Melloni l'ha registrato, ma live Fernando De Luca. Le chitarre sono state registrate dal chitarrista che fa parte della formazione prima, formazione 1, che è rimasto, Alex Aliprandi, e da invece un chitarrista molto bravo con un sound molto moderno che è Francesco Curatella. Quindi formazione nuova, tranne la chitarra. Violino sempre Maria Lavalotta come nel vecchio disco a suonarlo, e sassofono Claudio Lauria, c'è un po' di tutto. Sì, ma tu suoni però parecchi strumenti nel disco o no? Perché... Nei provini tutti, nei provini ho registrato tutte, tipo in Magdalene avevo fatto sia il basso che la chitarra elettrica, sia quelle acustiche che quelle elettriche, però io non sono un chitarrista elettrico e quindi meglio dare la chitarra elettrica a chi sa suonare bene la chitarra elettrica. Comunità Milano Ofelè fa il tuo mestiere, giusto? Esatto. Poi tu abiti a Milano, ma... Zona San Siro, sì. Sei milanese? Di... Ma se nascere a Milano significa essere milanese, ok, allora va bene. Beh, è più facile essere milanese se nasci a Milano che non se nasci a Berlino. Però diciamo che le origini sono un po' miste. Okay. Sì, però insomma sei nato, cioè, e vissuto a nato Milano. Nato e vissuto a Milano, quindi, sì. Vabbè, insomma. Allora, prima abbiamo parlato anche di live, volevo ricordare che, anzi ricordalo tu, domani suonerai a Padova. A Padova ai Carichi Sospesi. Ok, quindi segnatevelo. Se ingresso volete. Gratuito. Addirittura, ragazzi, questa è una notizia importante perché se guardate qualche volta il telegiornale dovreste essere al corrente del fatto che gratuito non c'è nulla, tranne pochissimi sporadici casi, quindi domani sera Max The Traveler suona gratis ai Carichi Sospesi, quindi insomma è un appuntamento imperdibile. E poi farai un tour, mi pare di aver capito, piuttosto impegnativo, lungo. Sì, gireremo un po' tutta l'Italia. Parto oggi io, qui da Padova. Poi torno mercoledì, andiamo a Cuneo e facciamo un po' di Piemonte fino al 18, unica data a Milano. Poi torniamo in Piemonte a Torino il 22, che apriamo a Steph Barnes. E poi facciamo L'Aquila, Ferrara, facciamo un po' di Emilia, facciamo un po' di Abruzzo. Poi ci spostiamo in Lazio. Facciamo Latina, aprile esattamente, spazio 47, facciamo il Marianello Jazz Café a Sorrento, andiamo ad Altamura al Bistrò, andiamo a Isernia all'Old House, andiamo... E poi tocca all'estero, hai già programmato? L'estero l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto due date di apertura a Grignani, a Londra, a Bruxelles, e delle date invece di nostre ad Amsterdam e Brighton, così. Torneremo a marzo, perché di solito in Inghilterra ci tornano spesso a suonare. Penso e spero, dopo ho suonato e sono piaciuto a Cambridge, almeno on the moon, torneremo ancora a Brighton, torneremo a Londra. Di solito conviene fare sempre 3-4 date, sì. Tanto è grande, se ne accorge nessuno. Parecchio grande. ma è interessante questa cosa perché molti musicisti mi hanno detto che il mercato inglese è un muro, cioè che dicono che gli inglesi siano un po', come dire, chiusi. È vero che hanno una discreta scelta in casa, per cui sembra che non siano, almeno ho sentito dire spesso che sembrano poco interessati a chi viene da altri paesi. Ma le mail rispondono subito. Quella educazione britannica. Educazione. Se sono interessato al progetto, al Wilmington a Londra mi hanno chiamato loro. Certo, cioè bisogna investire all'inizio come tutte le... Cioè, io sono abbastanza commerciante nel mio progetto, nel senso che considero che chi fa musica propria debba per primo investire, come tutte le attività deve crederci per primo. Quindi la promozione del proprio progetto nasce prima da se stessi, poi se trovi etichette, produttori, quant'altro, tanto è meglio. In due la forza è meglio. Quindi sicuramente se si parla che all'inizio le condizioni non sono vantaggiose per andare a suonare all'estero, è assolutamente vero, anche perché all'estero, così come in America, così funziona molto il pay to play, a differenza dell'Italia, che magari un rimborsino ci arriva, o magari Germania, Olanda, magari si lavora alla porta. Ma tipo in Irlanda, io sto parlando di un circuito very underground, cioè nel senso che parliamo del circuito basso, quindi cioè, la prima domanda che mi ha fatto un localaro in Irlanda a Dublino è stata quanta gente porto. Cioè, ed ero a Dublino e io vengo da Milano e mi chiedi quanta gente porto. Quindi le cioè, quando si dice ma all'estero è diverso, così cioè, hai detto che è diversa la clientela, cioè è diverso il pubblico, perché la gente è più propensa ad ascoltare musica nuova, tant'è che ci sono i cartelli ad Anversa con scritto no cover band, che è una bellissima cosa in Italia. Però la differenza è che magari i locali non sono così preparati come i locali italiani a livello tecnico, nel circuito è sempre basso. In Spagna, a Barcellona, il locale tipico di Barcellona, se trovi una presa elettrica sei già fortunato. E non sto scherzando, all'Espa Jesus di San Feliu danno 30 euro diviso tutta la band. Ah, sì, generosi proprio. Festival diversi, abbiamo suonato a Cambry Rock fortunatamente e già hanno rimborsato di più, però vabbè, e negli altri locali vanno alla porta ingressi. Al Cambridge, almeno on the moon, dopo che ci sei, che le sterline, il cambio non è favorevole, stai spendendo un sacco di soldi, dovevo andare gratis, è piaciuto quello che ho fatto, chitarra e voce, e hanno deciso di pagarmi tutto, però l'hanno deciso lì. Ma questo però è interessante come cosa, invece di una pacca sulla spalla. Sì, mi hanno pagato il taxi per andare in albergo, mi hanno mandato il cachet, mi hanno pagato la cena che non doveva essere compresa perché non avevano la cucina. Cioè dopo il soundcheck è successo questo, la cena, e dopo la serata è successo che mi hanno pure pagato il cachet. Quindi è andata bene, cioè va bene. Questa in effetti è una cosa che è veramente inusuale. Cosa ci suoni adesso? È interessante la domanda. E sei l'unico che sa la risposta, però. Sono Shine On in versione un po' più acustica, sentiamo, vediamo come viene. Ok, il brano che avevamo ascoltato prima, sì, in apertura. Radio Veneto. Start with a brand new day to feel something by myself, but something getting wrong, I can't see the heaven in front of you, and I'm here to feel that I believe in something that I hate. Try to be me, you know there's another time to come into my darkness, and you know there's another time to come into my darkness, and I've tried to tell a goodbye. Start with a brand new flame to feel something by yourself. But something getting wrong, I can see the heaven inside me. In the mirror to feel, and I believe in something. And I've tried to tell a goodbye. Allora, questa era la versione acustica di Shine On, Max Forleo, The Traveler dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Li lasciamo prendere un po' di fiato ascoltandoci intanto un'altra canzone dal nuovo album Life, in uscita in questi giorni, quando arrivano i famosi bollini di cui parlavamo prima, quando diciamo la burocrazia avrà fatto il suo lavoro. E questo brano si intitola 20th Century Shock, è a qualche riferimento con King Crimson o ah, no. 20th Century Schizoid Man, no? Sai che no, non sapevo neanche del titolo, no, però... Perché insomma, l'uomo schizoide del XX secolo e lo shock del XX secolo sembrano essere due cose, non so, simili o con qualche parentela, invece è casuale la cosa. Sì, è casuale perché la mia è tendenzialmente una, se posso dire, quasi una preghiera. Nel senso che il ritornello fa bless my mind, bless my time, bless my cry, but that's a 20th century shock. Cioè chiedo benedicire la mia anima, vicino a me, a te, la mia vita e tutto, ma è lo shock del XX secolo, ma che l'abbiamo passato ormai. Allora ci ascoltiamo la canzone 20th century shock. Understand the real side of the world. When everything makes me crazy, and I prefer to stay alone. Everyone wants success, but everyone loses control. The real side of the better man is behind the high wall. I turn up the light to see the faces of the century. I turn up the light to see my mirror clear. Bless my mind, bless my time, bless my life, that's a 20th century shock. I try to understand my life, I try. try to forget my cry, and I hope you understand. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Questo era lo shock del XX secolo, 20th century shock. E notavo che dei parecchi ospiti italiani che sono venuti qua negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, cantano in inglese. Ormai è il nuovo esperanto anche della musica. C'è stato un periodo in cui tutti quanti cercavano di buttarsi sull'italiano qualche anno fa, ma mi pare che adesso invece la tendenza sia quella di internazionalizzazione, che peraltro nel tuo caso la capisco bene, perché mi pare che tu sia già diversi anni che ti muovi su mercati stranieri, giusto? Sì, quello sì, però il cantato in inglese è perché secondo me ci sono alcuni generi che più musicali in inglese mi viene più naturale, perché brani italiani in italiano ne ho scritti, ma è un altro genere, cioè mi viene fuori un'altra roba che mi piace, però non è quello che... Altra roba che non incidi, però, perché... No, che non incide, no, me la tengo così, tu sedute, però faccio... me la tengo a casa, o magari su MySpace. A proposito, hai un sito, fai un po' di pubblicità, dai. Che... www.thetraveler.it, o se non ho detto bene, thetraveler.it. E il sito web, perché com era già occupato, immagino, da qualche agenzia di viaggi. Sì, sì, no, ma sinceramente sai cosa penso? Che ho scelto un nome che non è furbo. Perché se uno ti cerca su internet trova... No, per esempio, per un progetto che adesso per puro divertimento, siamo con la stessa formazione, facciamo cover, e ho inventato il nome Short Frame, cioè è molto più originale. Com'è, scusa? Short Frame. Short Frame è molto più originale, questo. Sì, Perché in effetti quello è un problema. Ci sono dei gruppi che hanno il sito internet dei tali The Band, perché se no non riuscivano a trovare. Ma per fortuna il punto it era libero. Sì, diciamo che forse non è stata una furbata, ma mi ci riconosco almeno nello pseudonimo. Fai anche vendita dei dischi? Online, l'etichetta. L'etichetta c'è myplacerecords.com. Si possono ordinare dischi, si possono ordinare già adesso. Con la promessa di spedizione non appena saranno bollinati, o come diavolo si dice. Ecco, riguardo a quel discorso della cover band, ne parlavi prima fuori onda, deve essere una cosa piuttosto divertente quello che fate. In pratica fate dal vivo quello che gli altri gruppi fanno nella sala prove, quando sono in vena di fare un po' di cazzeggio, ormai è una parola che non ha altri sinonimi, giusto? Esatto, sì, sostanzialmente la cosa più divertente ieri è stata, no, l'altro sabato, domenica. Oggi che ieri era domenica. Allora ieri. ieri al Bobino a Milano è stata divertente quando stiamo facendo un brano, vabbè, abbastanza gettonato e anche abbastanza semplice da suonare, però ci stava per la situazione, che è Stand By Me. E a un certo punto il bassista mi propone di attaccare, dato che il giro armonico, perché questo facciamo, prendiamo un giro armonico e ci infiliamo dentro tutto quello che succede. A un certo punto, durante questo giro armonico, che parte da La, sul Fa diesis minore, così, Re e mi dice: attacchiamoci il Breath You Take dei Police, che sono millenni che non canto, ma l'abbiamo fatta tutta, un po' anche in pugliese, sostanzialmente. c'erano tratti di testo un po' sconosciuti anche i Police. Però Copland va sempre in Puglia, per cui probabilmente siete riusciti a trovare un punto di contatto. E comunque, sì, per la notte della Taranta. Esatto. E no, sostanzialmente questo è quello che ci divertiamo a fare, nel senso, prendiamo un giro armonico e ci mixiamo dentro quello che ci sta. Ma tu a volte però con la band fai anche concerti con la tua musica, naturalmente. No, la maggior parte. Questo è nato da poco, proprio da poco. Così. Perché ci sono periodi di stand by col tour, giustamente, ma dovendo guadagnare tutti quanti, io per investire nella musica mi sono aperto una società di service audio, quindi noleggio strumentazioni, però comunque sia tutti quanti facendo i musicisti, io non insegno, gli altri insegnano, però si arrotonda con le cover. Comunque c'è modo e modo di fare anche le cover, perché mi sembra di capire che voi lo fate, insomma, non siete la cover band di Vasco o di... No, quello non l'ho mai fatto. Una volta stavo partecipando, mi avevano chiamato a fare il cantante per una tribute band degli U2, però dopo che ho scoperto la prova andava tutto bene, a un certo punto mi hanno detto: vabbè, per il live bisogna vestirsi come nel video dietro e fare quello che succede nel video dietro. Al che ho detto no. Cioè no, non ce la faccio, perché poi gli occhiali da mosca, sì, di Bono. Ma no, ma sta bene a Bono, cioè nel senso, sì, beato, sì, no. Bono che si riprende e si rimette, nel senso, è tanto di cappello che fanno i pezzi dal 76, scrivono musica, sono l'unica band longeva. Però il fatto è che io scrivo brani anche miei, e quindi tutto quello che passa viene scremato e fatto a modo mio, ma è in modo naturale, quindi tutto quanto viene riarrangiato, cioè non c'è niente che esca come dalla fabbrica, e quindi è un problema. Cioè, io partecipare a una tribute band di quelle per me è impossibile. Sì, cioè, sì. Fare il sosia di Bono, a parte che sono grasso, più grasso di Bono, forse grasso ancora no, però sono più grosso e grasso di Bono. Però non sei più giovane, è quello anche il problema, no? Cioè, devi fare solo i dischi vecchi. C'ho le barba, è un casino. Vabbè, adesso cosa ci suoni, dai, visto che hai la chitarra qua. La chitarra ce l'avevo in macchina, allora dici, l'hai portata. Esatto. Dopo mettete riarrangiato, ma mi piace questo brano qui che parla, si intitola Life, come il disco. Allora dopo la versione acustica sentiremo, sì, anche quella, anche perché io la studio, taglio, così la versione acustica. Il pubblico gli ascoltatori possono fare un confronto immediato. Il brano sostanzialmente dice che a me piace pensare alla vita come un'immancabile droga, nel senso che della vita ogni giorno io mi innamoro, cioè nel senso di quello che faccio, e anche nelle cose brutte ci trovo quel lato per cui comunque spingere. può essere sempre un insegnamento, anche diciamo. Sì, non è che sto dicendo niente di nuovo, perché c'è la filosofia di vita forse di molta popolazione, però mi è piaciuto scrivere un brano e dirlo. Basta. Giustamente. Allora, questa è Life, che è anche la title track del nuovo disco di The Traveler. Adesso ce la suona qui dal vivo in versione acustica. Buon ascolto. Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. When I'm going down the street and I'm waiting for love, I'm waiting for my dreams. This unforgettable truck. And you'll never be the same. But I'm waiting for the night to dream the day. Where I can feel my pride and beyond those circumstances. And I won't try to say goodbye. I'm here without my bags over the green line. Well, I'm forgetting the past and I'm dreaming the best, because I've sailed the west looking forward for my new dress, because maybe I'll be a better man. And you'll never be the same. But I'm waiting for the night to dream the day. Where I can feel my pride beyond all circumstances. And I'm waiting for the day to dream this dark and this light, where I can open my eyes beyond those circumstances. 'Cause I won't try to say goodbye. Cause I won't try. And you'll never be the same. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, abbiamo sentito live nelle due versioni. Si notava che il suono di questo brano ha un qualcosa di U2, diciamo, sì. Che ormai sono un riferimento classico, come può essere un riferimento ai Beatles o alle Zeppelin, insomma, fanno parte. Sì. Sì, quando uno usa certi riverberi con questo effetto. Di Edge, cioè non ci puoi scappare, capito? Sì, infatti mi ricordo quando uscirono gli U2 tanti anni fa, c'erano delle discussioni con qualcuno che diceva: ma questo tipo qua non è un grande chitarrista tecnicamente, e la contestazione che io facevo da non chitarrista è: magari non sarà bravo, però lui lo distinguo. Infatti ha inventato un genere. Forse vale un po' di più di uno che magari risuona Jimi Hendrix a velocità doppia, ma che tanto, cioè, lascia il tempo che trova. Che tanto c'era Jimi Hendrix. Esatto, appunto. Per cui sì, in effetti hai ragione, cioè, sono dei suoni che ormai fanno parte del sentire comune. La mia non era certo, era una semplice osservazione, visto che avevi parlato appunto. Ah, ma è giusto, del... giusto. Prima abbiamo un po' tralasciato il discorso, ma tu parlavi appunto dei testi che scrivi, storie d'amore, personali, che poi adesso è un po' cambiato, eccetera. E il fatto di avere un figlio, secondo te, influisce sul tuo modo di scrivere? Nel senso, pensi a tuo figlio, pensi al fatto che magari tuo figlio fra, che so, 5 anni, 10 anni, potrebbe venire da te e dirti: papà, ma cosa hai scritto qua, questa canzone? Ma con i DeLorean ho scritto un brano dedicato a mio figlio, che... era il momento in cui non ero molto presente per cause musicali, e quindi si intitolava un po' come il brano Sting, Invisible Sun, perché il padre è un po' la figura del sole nei disegni dei bambini. Questo non lo sapevo. Nel senso che scusate, parentesi, Max non sta tirando a indovinare, lui è laureato in psicologia. Quindi no, attenzione, sono laureato in musicoterapia in Svizzera e ho fatto il corso educativo, cioè tutta una serie di cose per cui lavoravo come psicologo al centro. e la mamma, scusa, perché adesso... La mamma è un'educatrice. No, scusa, nei disegni dei bambini il papà sarebbe il sole e la mamma... Beh, la famiglia è l'albero, l'amore è l'albero, la mamma è solitamente l'acqua. Ah, ok, interessante. Ritorniamo al discorso, scusa l'interruzione, ma era molto interessante questa cosa. Però sì, no, nel senso che quindi ho scritto un brano dedicato a mio figlio e ho continuato a scrivere, tipo Non lo canto stasera perché ho cambiato il testo in studio, nel senso ho fatto questa ninna nanna. All'inizio era nato come brano proprio introspettivo, poi l'ho cambiato pochi giorni prima di andare a registrare, proprio si intitola The Red King, il re giusto, ed è un monito appunto, una ninna nanna per mio figlio, per dirgli questo è il mio modo di vedere le cose, però io farei, cioè cerca di io la vedrei così. E gli dico di regalare le caramelle al nemico, di vedere la vita sempre con una sfaccettatura diversa. E, insomma, non la canto stasera perché ancora non mi ricordo bene quello che ho scritto, perché l'ho scritto troppo in prossimità di averlo registrato. Ce l'ho cambiato proprio in corsa. L'ho fatto leggere alla mamma mentre eravamo in viaggio. Eravamo in viaggio e ho fatto leggere il testo e ho detto, ho pensato di cambiarlo così. C'avevo solo iPhone, e, però... devo ancora ben studiarlo io. Ok, abbiamo ancora una decina di minuti, direi di ascoltare l'ultimo estratto dall'album e poi chiuderemo con un'altra canzone dal vivo. L'ultimo pezzo che hai scelto dall'album Life si intitola The Clown. È un vero clown o ti riferisci a qualcuno? No, The Clown è la professione, sostanzialmente c'è questa persona che sostanzialmente anche per espiare le proprie colpe, le proprie vergogne, decide e fa il clown come ultima chance di ribaltare quello che aveva fatto. Quindi lui dice: mi tolgo la maschera, però con la maschera ho sempre questo sorriso, ma il sipario si chiude, la gente va via, me la tolgo e il sorriso sparisce, e questa è la chance per dimenticare le cose che non sono andate di quello che ho fatto. Quindi il clown come contrappasso, espiazione. Bene, allora ci ascoltiamo The Clown e poi ci risentiamo per i saluti e naturalmente per l'ultimo brano dal vivo con Max The Traveler. The lights go down. Curtain will close, the audience go away. I take off my mask. I'm spending my time under sand to make people laugh. That's the chance for me. And tell me if that's the way to forget my blame. And tell me if this dark cup inside of me, the smile goes away, and tell me if there's a way to forget my blame. Tell me the difference. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era The Clown con questo finale in cui ti dai molto da fare con la voce. Tu hai una voce che varia molto la tonalità a seconda di come la usi, mi pare. Sì, sì, oggi non la sto usando a causa piccagna. Mangiata alle 9:30 di sera. È una piccola porzione di carne brasiliana. No. Una badilata, praticamente. Una badilata che ho mangiato. Dovete sapere che Max, insomma, ci ha fatto il piacere di essere qui con noi, e nonostante che la sua sia una giornata piuttosto impegnativa, perché ieri sera ha suonato, poi oggi eri in sala prove fino a che ora, alle 4? Sì, tra le 4, sì. A Milano, poi è venuto a Padova, ha fatto l'unico pasto della giornata e poi è qui con noi adesso fino a mezzanotte, ormai mancano pochi minuti alla fine, quindi la dura vita del musicista. Con orari piuttosto impegnativi, ecco, quindi siamo particolarmente felici che tu abbia trovato il tempo di essere qua con noi. Oh, grazie a voi che mi avete invitato. Sei sempre benvenuto. Ricordiamo le cose importanti, il disco Life è pronto e sarà disponibile a brevissimo. Magari in download è già disponibile, perché sul download non sono ancora riusciti a appiccicare le etichette. No, in download è disponibile dal 18. Ah, ok. In download dal 18, questa è una data che so già. Su iTunes, sì, sì, tutto, attraverso il distributore digitale. Sarà disponibile nei negozi distribuito Venus. E poi vieni qua anche da quando. Ok. E comunque Max domani sera sarà a suonare a Padova ai Carichi Sospesi, ricordiamo, gratuito l'ingresso. Esatto. Che fa bello anche solo a dirlo, no? Mette allegria. E adesso ci saluterà per chiudere questo appuntamento con Rock Wave Live, con un ultimo brano che è sempre un estratto dall'album Life. Sì. È un brano acustico nel disco che dal vivo ho voluto riarrangiare un po' Jungle. Un po' strano, un po'. C'è solo la strofa, poi il ritornello si apre e cambia ritmo. Ho sentito la mia ultima chiamata, My Last Call. My Last Call, allora l'ultima chiamata per i nostri ascoltatori per ascoltare dal vivo The Traveler, Max Forleo. Grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima. Grazie a voi, grazie. I'm watching on my soul because I'm feeling bad. The distance from my home before my birthday. I've climbed an August wall, but I never had my money back. But this my bottom, and I can feel the end. Waiting for a good day where the people don't try to forget the story, try to make a new line. I'm sleeping on the floor to feel the good side of. And that's my last call. Waiting for a good day where the people don't try to forget the story and try to make a new line. I'm sleeping on the floor to feel the good side of life. And that's my last call. That's my last call. Watching on my soul because I'm feeling red. The distance from my love before my birthday. I've come and I got swole, but never had my money back. But this my bottom, and I can feel the end. Waiting for a good day where the people don't try to forget the story. and try to make a new light. I'm sleeping on the floor to feel the good side of life, and that's my last call. Waiting for a good day where the people don't try to forget the story and try to make a new light. I'm sleeping on the floor to feel the good side of life, that's my last call. Waiting for a good day to make a new life. I'm sleeping on the floor to feel good side of life. That's my last call. That's my last call. That's my last call. Angel of lies, and you angel, there's an angel of lies stirring out your sight to cry. Stirring